Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi voglio commentare con voi una notizia che avrete sicuramente letto. Arriva dalla Gran Bretagna ed è una notizia che ci porta a parlare di colesterolo. Sembra che sia in corso una grande sperimentazione di un nuovo farmaco contro il colesterolo, un farmaco che per il suo meccanismo d'azione viene già definito come un vaccino. Ma di che cosa stiamo esattamente parlando e quali sono i tempi? Entriamo dentro la notizia con un grande esperto, il professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna, che è qui in studio con me. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, piano con i termini. Sì, direi proprio di sì. In questo caso forse l'aspetto giornalistico ha fatto prendere un pochino la mano a chi ha scritto questo comunicato di agenzia. Non si tratta esattamente di un vaccino, però si tratta di un farmaco che va alla radice dell'ipercolesterolemia. Forse chi ha scritto intendeva esattamente questo, cioè un trattamento molto più radicale del passato, nel senso che tutti i farmaci dei quali noi oggi disponiamo in qualche modo agiscono su un meccanismo che produce colesterolo. In questo caso questo farmaco agisce su una proteina che tende invece a proteggere il colesterolo quando circola, per cui togliendo questa protezione ovviamente rende il colesterolo visibile e il colesterolo può essere smantellato dal nostro fegato. In pratica questo nuovo farmaco toglie un meccanismo di difesa, di mascheramento del colesterolo e fa sì che quello possa essere metabolizzato e quindi se ne vada dalla nostra circolazione e non produca dei danni. Quindi lavora a monte, toglie lavora il mantello al colesterolo. Sulla base di un metodo geniale che è frutto della ricerca genetica in questo ambito, che ha identificato una proteina che viene prodotta dal nostro organismo come meccanismo di difesa quando noi riduciamo il colesterolo. Se noi riduciamo il colesterolo con qualsiasi tipo di trattamento, il nostro organismo non è affatto contento e tende a riportarlo al suo livello originale, e per portarlo al suo livello originale spara in giro una serie di astronavi sotto forma di questa proteina PCSK9 che vanno a bloccare i recettori che normalmente ripuliscono il nostro sangue dei livelli di colesterolo e permettono quindi al colesterolo di aumentare. In questo caso questo nuovo farmaco ha scovato la fabbrica delle astronavi, per cui le distrugge prima ancora che vengano assemblate, e quindi fondamentalmente il nostro organismo non riesce più a innescare questo meccanismo di controregolazione, quindi il colesterolo viene depurato da parte del fegato. Siamo in una fase di sperimentazione, ci vorrà ancora del tempo, soprattutto per essere certi della sicurezza di questo farmaco. Devo dire perché bloccare... In termini di efficacia ci sono già alcuni studi che sono stati condotti con lo stesso farmaco negli Stati Uniti e si sono rivelati estremamente efficaci nel ridurre il colesterolo, e soprattutto con un grande vantaggio che ha dimostrato come il colesterolo si possa ridurre in tutti i pazienti ipercolesterolemici, quindi non c'è sfuggita né in vari soggetti della popolazione. Cosa che invece sfugge ai farmaci attualmente a disposizione. Sì, le statine hanno diciamo un 50% di efficacia, l'altro 50% dei pazienti hanno una riduzione modesta o nel 10% dei casi addirittura un incremento dei livelli del colesterolo, che sembra paradossale ma è dovuto proprio a questa strana proteina che il nostro organismo produce per difendersi dai farmaci che abbassano il colesterolo. Nell'attesa, professor Borghi, questo colesterolo, lei ci ha detto, quando lo abbassiamo il nostro organismo non è contento, tanto che tende ad aumentarlo, perché il colesterolo ci aiuta, serve, certo, ne parliamo sempre in toni negativi, come un nemico della salute del cuore, tutti i danni del colesterolo, appena pronunciamo il nome siamo un pochino anche in, no? Ci sentiamo subito in colpa, ingiustamente in colpa, ma ci arriviamo. Ma il colesterolo fa tante cose buone. Certo, sicuramente. Perché tutto quello che la natura mette a disposizione ha una sua funzione, una sua utilità. Rivalutiamolo un po', questo colesterolo. Ha parecchie funzioni essenziali, non fosse altro per la sua struttura chimica, che è simile ad esempio a quella degli ormoni, di alcune vitamine come la vitamina D. Quindi quel colesterolo che noi produciamo dal nostro fegato serve come lo scheletro, come la base sulla quale vengono poi costruiti ormoni e vitamine, quindi è un elemento assolutamente centrale. Inoltre, se le nostre cellule hanno una funzionalità normale della membrana, quindi sono in grado di difendersi dall'ambiente circostante, ma soprattutto sono in grado di sorreggere tutti quei grandi sistemi di trasporto che le fanno vivere, lo dobbiamo all'impalcatura creata dal colesterolo. Ma il problema è che la quantità di colesterolo che serve per fare tutte queste cose meravigliose è circa di 30-35 mg per decilitro, e noi siamo l'unica specie sulla Terra nel quale invece il colesterolo tende a aumentare nel corso della vita ed arriva a valori che in media si attestano intorno ai 170-180, quindi circa 6 volte quello che sarebbe necessario, ed è naturale che tutto questo colesterolo in eccesso da qualche parte debba essere smaltito. 3 per 8, 48, 6 per 9, 29, 3 per 3, 33, i numeri, non li sopporto più, la matematica, che mi perseguita, quanto mi dai, dimmi quanto mi darai, a che ora arriverai, scusa dimmi che ora fai. Professor Borghi, intanto le chiederei se possiamo dare i numeri, che così i nostri amici che ci stanno seguendo magari vanno a prendere gli ultimi esami del sangue, perché si dosa con l'esame del sangue. Assolutamente. E vanno un po' a confrontarsi, magari facciamo venire il desiderio di misurare il colesterolo, credo di no, però magari mettiamo la pulce nell'orecchio, magari non l'hanno dosato da anni, perché no? Perché non può essere un'ottima idea di capire quanto colesterolo circola. Anche perché molto delle forme di ipercolesterolemia potenzialmente pericolose sono genetica. E quindi se i nostri ascoltatori hanno vecchi esami in casa fatti negli anni passati, possono andare a ricontrollarli, perché nel caso in cui il loro aumento del colesterolo sia basato su un meccanismo familiare, sarà già alto nei vecchi esami, o quantomeno sarà spostato verso l'alto, e questo dovrebbe indurli a un nuovo controllo per vedere qual è la situazione attuale. Quindi i vecchi esami in questo caso possono rivelarsi estremamente utili, perché alcune volte sono indicativi anche della nostra situazione attuale. Noi dobbiamo marciare sui 200, vero? Di colesterolo totale, sì. Oggi al colesterolo totale non si attribuisce più grandissima importanza. Conta mi molto. Mi è caduto un po' in disgrazia il anche colesterolo. Il colesterolo LDL. È un attimo, Lo so, ma oggi conta molto questo colesterolo LDL, che è quello più potenzialmente pericoloso, quello legato alle cosiddette lipoproteine a bassa densità. Oppure, alternativamente, oggi sta prendendo molto piede un parametro intermedio che si chiama colesterolo non HDL, che è la colesterolemia totale meno, con una sottrazione semplicissima, ai livelli di colesterolo HDL, che contiene praticamente tutte le frazioni di grassi che possono essere pericolose per le nostre arterie, e i cui valori di normalità sono semplicissimi, perché sono 30 mg per decilitro al di sopra dei livelli di normalità del colesterolo LDL. Professor Borghi, quando parliamo di colesterolo alto, noi ci sentiamo in colpa, perché diciamo sì, ho esagerato. In realtà non è colpa della dieta. No. Non è colpa della dieta, certo. Sdoganiamolo. Se esageriamo, dobbiamo sentirci in colpa comunque. Sì. Però non dobbiamo pensare che il colesterolo sia un nostro viatico che ci permette di mangiare liberamente, perché sappiamo che non aumenta quanto ci aspettiamo. Noi dobbiamo comunque controllare la nostra dieta, però dobbiamo farlo con la coscienza che la quota alimentare di colesterolo corrisponde più o meno al 10-12% di quello circolante. Quindi attribuire troppe colpe al colesterolo alimentare è probabilmente sbagliato. Professor Borghi, che cosa possiamo fare però per tenerlo sotto controllo? Se a tavola i sacrifici non pagano, anche se dobbiamo ridurre le porzioni, qual è lo stile di vita che ci aiuta a mantenere i livelli di colesterolo ai valori ottimali? Beh, qualche sacrificio a tavola comunque ci aiuta, perché se noi mangiamo prevalentemente cibi che abbiano un basso contenuto di grassi, e intendo ad esempio frutta, verdura, cibi a elevato contenuto di fibre, pesce, abbiamo la certezza che probabilmente non incidiamo in senso negativo sui nostri livelli di colesterolo. La seconda cosa che dobbiamo fare è cercare di muoverci. Sì. Quello è assolutamente fondamentale, muoversi, camminare, cercare di fare ogni giorno un minimo di attività fisica, perché naturalmente se da un lato non dobbiamo introdurre nulla di sbagliato, dall'altro dobbiamo cercare di consumare il più possibile. In generale, sedentarietà e alimentazione eccessiva sono i due elementi fondamentali ai quali dobbiamo prestare attenzione. Professor Borghi, parliamo anche di nutraceutici. Possono aiutare a riportare il colesterolo ai livelli normali? A livelli normali soltanto nei pazienti che abbiano un aumento molto modesto, perché la potenzialità dei nutraceutici è più o meno quella della dieta, 10-12% di riduzione della colesterolemia. però certamente nei pazienti che sono intolleranti a una dieta troppo stretta, che hanno un aumento modesto, quindi non superiore diciamo al 15% rispetto ai valori normali che abbiamo dichiarato in precedenza, è possibile che utilizzando nutraceutici possiamo ottenere un buon risultato. Professor Borghi, quali tra i nutraceutici hanno dimostrato di avere maggiore efficacia? Sicuramente il riso rosso fermentato è quello che ha maggiori dati di evidenza, che sono peraltro presumibili però dalla sua natura biochimica, perché il riso rosso fermentato altro che non è che una statina a basso dosaggio, quindi il meccanismo d'azione è fondamentalmente lo stesso delle statine. Professor Borghi, la ringrazio, le auguro una buonissima giornata, auguro una buona giornata anche a Valeria Bernardi in regia, la parte tecnica, eccola lì, a Laura Vanossi in redazione. Noi come sempre ci sentiamo a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per la nostra diretta Facebook. Seguiteci sui nostri social, siamo anche su Instagram. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast.